magari ci conosciamo più di 20, quindi è così, la realtà è quella, c'erano i fatti, proprio i fatti furiosi. Cosa hai detto? Non ti preoccupare, come te ne intendia la sua favedà e scia in macchina, non hai trovato manco, come te ne intendia lo lasciava parlare, tranquillo, lo faceva tutto, tranquillo, non lo entrava neanche, me lo vi, ci bruciava in macchina, vaziero io, metti il gas. Suonava il campanello, scende, chi è? Un amico, scende, come ti varava, boom, morto. Perché tempi, ma qui devono succedere quelle cose. Io dico sempre, quando sei importante, quindi ho ciò pegare, ho riscritto in tutto, tanto non ti date nel bagnano, a piedi nudo a Baracchino. Lascia perdere, vai avanti. Buonasera a tutti, ciao Bacchino. Ma infatti Bacchino così, è meglio lasciar perdere. Adesso per non fare il nome di una persona, non so, una volta mi ha attaccato senza motivo, dicendo una pagaccia di tua madre, la sua madre non la c'entra qua. È che peccato non c'è peccato. È che è una persona anziana, ciao Vittorio, mi avevo fatto l'aiano al vino io. Con la c'entra mia madre, sentala con me, con la c'entra mia madre. E chissà come stai parato, mi e non vicino in casa tua, amico quello. Oh, Bacchi. Vicino a casa? Boh, non lo so, vicino a casa ce ne ho tante. Prima, diciamo così, io l'ho circondato, ma adesso non c'è più nessuno, capito? Forse che qualche vecchio. Hai fatto venire da Giulio Donna, non lo sa. Che era? Adesso ho fatto venire da Giulio Donna, che lui lo sa. Quando ti capita che passi da lui, ti troppo a dire. Ah, ma per Dio, dai la mamma, senta con me. Mamma mia, lì, non mi gioca a capo, guarda, che devo ringraziare che le condizioni che sono uguali, guarda, sono parato, cazzo, sono parato, per entrare con me, ma non tocca la mia madre, perché allora mi incazzo veramente. Basta, ti ho detto, Luca, quando è, giri da monopolino, non senti più nulla, e poi basta, e via. Alla prossima volta che lo senti lo scatti, invece di parlarci con lui lo scatti e buonanotte e si tira avanti. Bene, bene, dai, sono stato per fare una battutina così e poi me ne faccio pure. Bene, ciao Lu, ciao Claudio, ciao anche a tutti gli altri che sono lì all'ascolto, ma chi vi saluta e vi auguro ancora buon questo e lo vado a piedi. Ciao Bacchi. Ciao già. Buonasera, mi hai riconosciuto la modulazione. beh, grazie Tina. Buonasera a tutti comunque. Anche ciao, buona serata, alla prossima. Vai Claudio, ciao anche a Gianni di nuovo, avanti già. Ma Claudio, ripeti tu e poi già, c'è anche quella uno, è piccola. Ehi, ehi, ciao Battiglia, ciao, no, io sono entrato solo così perché ho sentito che c'era questo discorso. Ma vabbè. Ripeto, ribadisco che niente ci dà questa radio, più che un divertimento. Va bene. Signori, quelli che si per me mi guardo un po' di TV, se coincidi a più tardi, altrimenti a domani. Franco, domani mattina allora passo? Correti anche per me, dai, vado a mangiare e poi ti prendo. Ciao ciao. Ciao già, Franco. Franco, c'è. Ah, Franco, California. Ehi, non sei in Kiwi tu? Sono qua. Dille se domani mattina passo, a che ora passo? Diciamo un quarto, 10. Meno t'avviammi. Se mi dici che devo passare, passo, se no, dimmelo, se devi fare qualcosa, me ne sto a casa. Ah, non devi fare niente. Non devi fare niente, no. Ma non devi fare niente. Bene, avanti già, per fare, prendi tu. Andiamo a mangiare Pierpao. Pierpa. Sto mangiando, riprendo dopo. Aspetta un attimo, Fra. Non so che... Senti. Lui, altri cazzo di due. Tu che dici tu, il due? Va bene. Beh, guarda. Aspetta, qua, scusa. Ho fatto vedere a Franco. Se stazionale non ce n'è, non c'è. siete muovo. Non si muove niente, niente, niente. Babbo, dai, proseguite, mi pare c'era anche Antonio. E prendi tu Antonio, dai, io rimango in QRX, se mai ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti, stand by per me. Ciao Clark, salutoni, ci risentiamo alle prossime. Ciao Anto, ciao, c'è un importantista comunque, ogni tanto da due colpi, ma no, non ti fa niente, vai. Ci sentiamo più tardi, vai Luca. Chi è che chiama? No, no, stavamo parlando di quel discorso là, di chi si deve prendere un voto. E ce n'era uno, l'ho comprando, che vorrei amare un voto, di sicuro, di quello là, di quello là, stavamo parlando di quel discorso lì. Occhio a tutti i gambi, già c'è il masco, ecco l'Ugaria, già. Invece è spostato, ciao anche a chi è, Giovanni? Giovanni sì. Ciao Giovanni, ben sentito, buonasera, vai. Se rimanete qua ci sentiamo dopo, per adesso mi allontano un po' dalla radio, vai, a dopo. Bene, stai arrivando, non c'è problema. 5, 9, 10. Già va abbastanza bene. Ehi, ehi. Ehi, ehi. Non c'è tutta perché c'è tutto il canale. E vabbè, Giovanni, e che fa? Ehi, ehi, ma la mangio a farrai, a me la pistaccia da farrai. Ehi, già Ruggiolo, a me la mangio. Sento per niente, a Pierpaolo sento sotto perché 9.25 è qua a portata. crepa, tutte e due. D'accordo, no, però, da Franco. Bravo, da Franco, no, si è attaccato a me, Franco, ma ti vado a sentirvi. Boh. Ah, abbia il paolo, ma ti vado a stare uscita io, ma per carità. Ho già detto poc'anzi che se deve essere un rilassamento va bene, ma se deve essere una rottura di balle è meglio spegnere, va, ci sentiamo più tardi. E vabbè, ma che cosa deve essere un rilassamento, va bene, ma non mi sento, mi copre tutte e due. No, ma non ti copre, non ti fa niente, usa Antonio Giovanni copre. Questa roba fumicata a me piace. Buona, pure a me che ti costa. sbagliato. Mangiano anche tu, sì. Beh, non si è mai visto già, io già mangio. Vabbè, comunque sta scendendo bene adesso. Scendo bene? Eh sì, oltre 9. Oltre 9? Oltre il 9. Oltre il 9, 9-10. No, no, appena appena più del 9, sì. Non sei manco lo vici, però un po' di più. No, male, va. Cosa è successo? Ho seguito perché stavo seguendo a Marco là. Vabbè dai, non tanto siamo preoccupati. Ma se ne vado? Tanto, lo ignoro, è pazienza. Ah, stavo dicendo. Anche a me piace che vado a Marco. E io? No, perché sta piangendo Marco. Sì. Diciamo che lo sta bene, là. Va bene, non sta a perdere. Negativo. Momento. No, no, le fa male. È un po' irritato. Ah, è poverino. Paga. Paga. Sì. Ha messo la crema adesso. Andare. Vabbè. Pierpaolo, Pierpaolo, incazzato stasera. Pierpa. Bisogna far finta di non sentirlo nemmeno, non dirlo nemmeno, così almeno pensa che non lo sentiamo e si innalza. E infatti. E vabbè, dai, non ci ha pensato a tutti. Che faga. È abbastanza, quanto basta, e anche di più. Anche noi siamo molti. Domani però non lavorate. Non lavoriamo. Io sì. Carugna. Domani, domenica, penso. Quando? Domani. E allora c'è il suo fucile. Se c'è qualcuno a portartela, non dire scherzato, che a casa se ne ho consegnato. Io le chiedo proprio lì alla pensione se la portate da già. Allora sì, dai due. Ma te la posso anche portare in macchina, il problema non è. Chiedo direttamente di avessere portato da già. Allora la doppietta a posto, chi c'è non va? Sì, diciamo che non in tutti i casi, ma se hanno conoscenze di gente autoloccata glielo faccio. Sì, sì. Gente così viene servita riferita, invece i poveracci che pagano con gli stessi soldi non vengono trattati allo stesso modo. Ma non lo fanno, no? No, gratis. Sì? Ma i mobili vogliamo pagano la consegna. La consegna. Cosa che ho fatto? Meno male che il produttore è piccolo. Sì, non è piccolo piccolo, produttore. Non ti credi. Non lo so quanti ne ha, però è abbastanza, è una cittadella adesso. Ma io riesco anche fuori. Non so se la produttore, vado a Sentino, vado proprio a San Nicola, vado a Sorsa, a Senoli, insomma, giro. Quando comprano i mobili li comprano con la zona lì, ma con la zona lì. No, la spesa no, ma c'è che là. La spesa solitamente si fa all'interno del produttore, spunto. Poi se c'è qualche cosa al di fuori devo chiedere a loro. E poi mi faccio dare una mano da chi di ordine. Cosa? Se non sono in grado me li do raccontare da rito, non c'è problema, o chiamano qualcuno. Vabbè. Dice ascensore qua non ce n'è, già c'è Gianni che fa l'ascensore. Aspetta, per pasta la fine, metto le cure. Ecco, adesso c'è le cure, mi sento lì. Cosa portare? Medicinali? Ma con chi? Alla cima ti ho lavorato. Io ho conosciuto Gianni De Martino. Cappa. Poi c'era che però era con la cima anche con Giorgio che lavorava per tutti. Ah, Giorgio Anchiotto. Giorgio Anchiotto portava la cima. Cappa. E tu cosa facevi? Era di niente. Creativo, l'ascoltavo, era il secondo. Artista. Creativo, ah, cioè andavi insieme a lui per portare un pacchetto. Ma vi mandavano in due. Anche per dire cosa so, poi a loro per un fatto di leggi, per le leggi, no, per le così, già ho capito. Meccanici dentisti. Esatto, ma sai cosa portava quel pacchetto? No. Ne eravamo un bel dente. Ci sono state un po' di pacchetto, se lo possiamo mettere in Italia. E poi lui li compone così. Poi, perché fanno già quelle cose. Comunque erano gli altri un pacchetto, non gli avevano assicurato quelli. Era assicurato, ma lui era assicurato. Ma forse mi mandavano due perché essendo medicinali c'era anche il metadone, questa roba qua e c'era pericolo, no? È un lavoro che non ti fai, non ti sfasci la testa, eh? Beh, io quello lo facevo, era quello io andavo come secondo, ero in parte assicurato, in quel periodo era questo, l'armato, la cosa. Ah, ecco. Ci avevi, come si chiama? Portolano, cos'è? Portolano. Adesso non ce l'hai più. Non commerciale. Perché? Quando devo fare la guardia giurata? No, non mi piace. Eppure nel fase di vita. Non mi piace tanto. Non mi piace. È un volo che stai lampando un bel, no? Edoardo, cosa sta facendo? Sono uccellito. Che dire? Ma ti ho se al microfono come premuto A. Cosa sta facendo? Edoardo Zero sta facendo, ha cambiato tre di ditte, sempre aumentando gli stipendi. Guarda, aspetta un attimo, aspetta già. C'è abbattimento, cioè. Non è che sei tu che stai andando con l'altro canale? No. Anch'io. Poveri tu che non andato il canale vicino, eh. Già ti ha cambiato tre ditte. Edoardo. Edoardo è partito fuori a... come si chiama? A Oderto, vicino a Treviso. Ma dopo le definizioni che fanno? No, là sì, là ti pagano ben bene. E guarda, sai con che macchina hai avuto? Con la Passat Station Wagon, come fa nuovo? Ehi, vabbè, ma guarda, io so che non faccio... Grazie. No, io l'ho fatto guardia privata, in pratica, non l'avevo preso per questo. No. Mondial Pool, dove c'è Eduardo. Ma sai cos'è? Lo so, anche Gianni si è trovato un po' così, è dovuto partire all'estero. Sì. Gianni De Martino, quello che lavorava alla Cima. Ah, non c'è più, neanche lui qua. Sì, adesso è ritornato, adesso lavora in un'altra ditta, sempre di medicinale. E quelli non c'è più la Cima, non c'è più la Cima. Già lo so, ci lavora un bel di gente, Graziella... Oh, non lo ricordo il cognome, come si chiama? Era un bel dipendente. Non lo so. Ma andava anche fuori, quindi. Sì, grazie, fuori. C'era un bel dipendente, per il trasportatore, c'era un finito esterno, per fare altri dubbi. Era un bel. C'era un sacco di ragazzi, altri. L'altro lo faceva per fare la Cima, no? Perché? Te saluti. Perché da tratti? Io? Se mi sento che sto scendendo bene, forse c'è qualcosa. Io ce lo parlo ascolto e sto scendendo bene. Ciao. Prova a vedere. No, si dice ma niente, cioè schiacci. Prima parte e poi schiacci. No, non è possibile. Ho schiacciato male il microfono, forse. Però quello prima a farlo più schiaccio non è possibile, cazzo. Non c'ho mai spiegato il microfono. Ma vabbè, allora forse ho capito perché. Cioè perché? E allora? Perché c'è qualcuno. Stanno mettendo la portata probabilmente. Probabile, non è probabile. Perché arriva a 70, no? Aspetta. Ho fatto l'ultimo. Adesso bene, guarda a vedere, 1, 2, 3, prova. No, ma non hai capito, tu arrivi bene, ti arrivi bene, soltanto che ogni tanto gente, no, capito. Qualcuno mi sta prendendo la portata. Ma tanto male che tu sei tu, non hai capito, bene, troppo bello, perfetto. E cos'è che sono io che mi diverto al dito? Magari è lui che sta toccando la portata. Ma vai da me. Cioè, come che adesso mi diverto? No, guarda, non ti sento bene, già stai. Ti scendi male nel radio, mio, non ti tengo mai nulla. Questo è un attimino, però può darsi che da te ti arrivi, da me invece no. Ah, beh, sì, infatti. Ritorniamo sempre al discorso che ci avevamo anche oggi. Che la matematica non è un'opinione, sono numeri. Poco più 2 fa 4. No, per Antonio 2 più 2 fa 3. No, guarda. Non so. Però era puntato verso che da base. Dai, non che è passato un giudizio. Sì, già, avanti lo posso vedere. finisce in Castello del Turno. In casa se ne guarda, anche se no è stato detto del riposo anche di origine. Ah. Io ti faccio la tua risatina. No, non mi sto incazzando. Fanno capire che fatto. Ehi, vabbè. Perché ti sta sfotticchiando. No, non mi arrabbiate. Fai bene, Antu, non ti arrabbia mai, tanto non le vuoi la pena. Aspetta, già, fatti dire quanto ho fatto 7x3. Sto fumando. Adesso lo fai. E non toccare quella calcolata se sono su 4, ma capite. Già, fatelo dire, corretto. 4x1? 2x10? Sta fumando. Dove come li ha un capo? Antu. Signore, sto buffando. La matematica, bravo. La accendere il computer, per gli occhi dal computer. Perché matematica non era bravo? Sì, Antonio. Ma anche a me la matematica non mi è mai piaciuta, per particolarità. Mi piacevano le materie scientifiche, la geografia, la scienza, il francese, tutte queste cose qui, sì, però la matematica. La odiamo. Sì, ma ancora tutti la odiano la matematica, è stata migliore che non la odiano. Anche a me la matematica non era tanto... Però, insomma, io me la cavo, Io qua faccio quasi tutto a mente. Ma padre fa a mente i conti di milioni, eh? È un cranio, mio padre, non ne ho mai usato calcolatrice. Il negozio usava la mente e basta. Infatti, io poi adesso ci sono anche abituato, sai che io me faccio bene così a mente, forse meglio la calcolatrice. Matematica mia, dottor Ordinato. Fa una cosa, 10 euro per 20 euro, quanto fa? Cappagatto. Antonio. Fai i conti in soldi che così almeno ti viene meglio. Io sono più contento, solo un altro bel po' di là. Anche poi con i quaderni non sono più contento. Lo so. Sono la matematica che dice di un po' così. Poi vabbè anche un'altra cosa. Studiamo. Ah, sai cosa mi piace tanto? Quelli studenti che quando era al tempo non fa tempo, non si toglie, non si chiama, non è questo tipo profetto, non è così. La chimica. La chimica, la chimica, la scuola. Sì, chi è che sta saltando? Antonio, canta poco gli piaceva. Vai, Antu. Non sai cosa ha fatto un giorno, un esperimento, con uno di quei motorini piccolini, di quelli del modellino delle macchine, no? L'ha collegato a due vecchie e si è divertito a vederlo saltare in aria. Wow. Eia. Allora l'ha bilata. Ha bruciato, messo in pianto pure, però l'esperimento l'ha fatto. Eia. Poi, per esempio, un caffè particolare tu non l'hai mai bevuto e penso che non lo berrai mai, Come sarebbe? Le maestre si facevano fare il caffè da lui, no? E lui allora ha pensato un giorno, vediamo se è buono come un elemento base, principale, brutto, per essere buono. Cosa ha fatto? Al posto dell'acqua ci ha pisciato dentro e lo ha dato a bere alle maestre. No. Ma pure mi ero ridendo, no, no, no, no. Ho chiamato per dirlo. Allora, ma l'ho chiamato per dirlo. Ma si rende conto che cosa ha fatto suo figlio? È bello che te la rideva e ci ha detto che aveva messo la pipì. Buono, ci ho pisciato dentro. E ma sei macchina. Se aspettavano che io mi incazzavo con lui, no? E invece io mi sono arrabbiato con loro per il semplice motivo che non si stava bene che toccasse il caffettiere, che toccasse i fornellini e via dicendo. Cioè, ma stai scherzando, fate fare il caffè a un ragazzino. E altri come vergognate. E loro se stanno lì? Ma noi glielo facevamo fare così, perché magari a lui gli piaceva, così stava buono un po', andava buono, e infatti ve l'ha fatta buona, prendete quello che aveva fatto, e ricordate pure che non vado a questo anno. Così ballaggio, sì, così battacchio. Proprio mascalzone allora, ma calmatosi adesso, sì. No, adesso è buono, adesso è calmo, no, se gli è passato. Ma questo è elementare per me. Sì, sì, tutto elementare era per me. Se c'è, la bianda. Ma perché anche questi studenti avevano mandato le paste, i bignè al professore, e niente, ci avevano messo la cacca invece che il cioccolato, chi ti si era mangiati, io. Allora sai cosa ha giubato una via la monta? Eh? Ero incantato niente, perché mi avevano fatto la cattiva, mi ha mandato via dall'oratorio. Allora ero nervoso, A un certo punto, passeggiando, trovo una chiave di quelle per la ruota. Sto andando e mi ha rimontato la ruota. Da più di un'oretta ero girando 20, andato a farsi, vado pure la macchina in terra. E caroglia, Non ho capito che tu. E ti sei buttato di là? No, era arrabbiato, ma avevo fatto la cattivo, invece avevamo mandato via la lavorazione. Poi di proprio in questo momento mi è capitata la giacca in mano. Tipo Pierino. Era tipo Pierino alla peste per te. Però te lo ricordi? Sì, in modo che la peste. Da combinare, era minore che ne combinava già. Io da ragazzino sì, era una peste, però poi gli anni passano, già cambiano. No, già è cambiato, ma prima ne combinava una ogni altro. Ma poi quando c'erano proprio di cose, di dentro, capito? Quando ce l'hanno dentro il fatto di indole, fanno così, non c'è più cosa da fare, ce l'hanno dentro proprio l'indole di fare certe cose. Tutta la calma e studi, non l'ha fatto lui, la calma e studiosa ce l'ha preparato lui. Sì, la calma, stava buona, e poi diplomata per te? Sì. E dove sei diplomata? Da dirigente di comunità. Ah, vabbè, ha trovato qualcosa. Lei ha fatto anche il giochino, lì è pratica, ha preso altre cose, ma è tradito. Però no, sta facendo ancora, sta lavorando per questo. Vabbè. Quello che dice il provirotto e metterà la pappa, al momento opportuno si può togliere fuori, no? Anzi, per meglio dire che se non da fare fa due del lavoro. Se la vado a sera lavora anche per uno. Oh, quella c'è il caricabatteria attaccato. Che paga, viene anche lì dalla madre. Come? Che viene anche a casa tua dalla madre, va? Sì, forse. Oh, vabbè. Ne hai due, almeno sono tutti e due affezionati alla famiglia. Sì, la signorina lavora, due lavori qua, è già da fare. Vabbè, sa che c'è la madre che è così, è riconoscente, viene aiutato. No, beh, aiutare qua a casa non c'è niente che fa. Lavora, la sera lavora, la mattina no, c'è un lavoro la mattina e un lavoro la sera, capito? Ecco. Ma tua moglie è già in grado di fare pulizie, di fare tutto? Sì, non è così. Non è così malmessa, anche se guarda al 100%, ma non è così. Già, la può fare la cosa. Sì, allora già va bene. Ma facciamo che stesse a letto sempre. Insomma, che quando si sfonda, no? Io ho mia nipote che è nata con un rene, è nata e i genitori quando correva da piccola, non corre, fa impedire una bambina di correre, ma poi gli fa male, già, gli fa male che c'ha solo un rene, lì, non può correre, è suda e poi gli fa male. No, già, lì, piano piano sempre, piano piano, non è che può fare, logicamente da faticare, ma piano piano le cose già se le può fare, diciamo, ma si deve camminare, no, quello già fa. E so che non lavora più, ecco, ha smesso il lavoro e tutto quanto, ecco. E cosa vuoi per fare? A mia nipote gli ha detto, dottore, che può vivere tranquillamente una vita normale, però sempre questo quello. Dice, deve rendersi conto che è come se una Mercedes abbia il motore di una 500, cammina sì, ma non ce la fa correre più di tanto, questo. Quindi le cose che fa, deve fare più lentamente, eccetera, eccetera, non forzare. Se non forza, il rene che c'è, dice, grazie a Dio, è sano, è proprio una cosa naturale per lui, perché è nata così. Così, piano piano, purtroppo quello che si faceva prima non si può più fare, è così. Logicamente quando ce n'è uno che funziona, il motore, come hai detto tu, non è completo, quindi non è che uno può fare le cose normali che ci deve fare, ecco. Vabbè, interessante andare avanti e sperare sempre di riuscire. Anche a Bastianino, mio compare, l'hanno operato a un rene, ne aveva uno atrofizzato e l'altro praticamente che sta funzionando male. Gli saliva la pressione di colpo, non capiva cos'era, non aveva mai fatto pressione, ha fatto tutti i controlli e l'ha trovato questa spunta. Anche questo, cioè, adesso quello che è in mezzo, no? Sembra che sia una macchina che ha sviluppato un po' positiva. Tutta anche l'acqua che beviamo lì per fare, la nostra acqua è calcarea, il nostro tipo di acqua è calcarea, quindi provoca calcoli, tutte queste cose. E i reni alla fine poi sono difficili, c'è poco da fare. Anche l'acqua del rubinetto non è che è giusto, c'è il cloro, se non ci deve fare niente, però tutta l'acqua, per dei conti, non è che faccia pezzi, è stato pezzo, ma siccome l'acqua anche serve degli elementi pesanti, posso far male lo stesso, che c'è il consigliato. Allora, ah, perché cosa ti credi? Funte fria, come ti posso dire, Tamara? La pura, e acque sono acqua da pezzi, sono tutte acque calcaree. Quando era la fluorina si accorda l'acqua, quella sì che era buona, e filtrava praticamente fluorina, c'è di bello che l'acqua viene filtrata dalla ghiaia che c'è naturale e vi fa la filtro, no? Quando scende limpida, io guarda, la lasciavo nelle bottiglie per apposta, non faceva al minimo fondo, niente. E quella era buonissima l'acqua. Ma vera che su bastone allucinante, se ti vedo facendo le bottiglie del bidone ti diceva cosa, che non si sprecava l'acqua così, che qua per l'altra. Ma c'era là, un giorno. Guarda che quest'acqua è medicamentosa, noi lo sapevamo anche quando i cavalli erano malati, ma quest'acqua, vabbè, credete di cavolo, ciao. Sì, hai detto che era il giorno, ma... Eva, cioè non, io sono convinto che poi tra l'altro acqua buona. Un tempo ci portava potrebbe esserlo. No, quindi hai capito. Addirittura, allora ci sono le sicuro di qualcuno vaginista. Capito, vicino, come sono partiti che sono andato a vedere le cascate, le cose come si chiamano? Della Marmorata. Le cascate delle Marmore, cioè. Praticamente abbiamo bevuto l'acqua lì, ui, che roba buona, proprio bella fresca, ghiacciata, si ghiacciava la bottiglia, ascesa dalle montagne proprio. Sì, io lo credo. Ci hai mandato a quei posti, ad Arizzo, Belvi, per così? Sì, sì, Arizzo ci ho fatto anche Pasqua e Pasquetta in albergo a San Buvara. Ci hai mandato a vedere quelle cascate che c'erano lì, soprattutto verso, da Arizzo a Belvi? No, non le ho mai viste, sinceramente. Abbiamo fatto un'escursione dall'albergo, ma è tutto in zona di montagna, dove c'è la roba di acqua, ruscelli, roba del genere, ma questa qua è buonissima lo stesso. Ho mangiato molto cinghiale quei due giorni. Quelle lì, io sono stato parecchie volte, no, lì, per motivi di lavoro, soprattutto per figlio, da visto, tornare. Passando lì ogni volta ci fermavamo, d'estate principalmente noi, no? Ma era uno spettacolo, che pigliavi la pure la pianale, si cacciava una ma con un frigorifero. Lo so, anche d'estate. Sì, sì, è vero, perché anch'io l'ho curata. Non so se tu conosci quel ristorante dove sono stato io, quell'albergo, si chiama Samovara. No, sinceramente no. Non l'ho mai visto. E può darsi, ma non ci sono mai stato qua. Noi ho fatto il Pasquetto. Una volta siamo andati tutti in Grecia con gli amici, tutte le ragazze, eccetera, eccetera. Siamo andati, abbiamo preso questo albergo qua. E abbiamo mangiato il cinghiale in tutte le maniere possibili e immaginabili. Già, quando io facevo serate lì in zona di periferia, Risto, Tonnara, in quella zona lì, noi andavamo sempre a dormire all'ostello della gioventù, che era del comune, era chiuso e quindi ospitava noi. Ah, ecco. E a mandigare? E a mandigare, Giulia. Mandigare la perdita. C'era un sindaco a Belvini, un sindaco donna, e insomma gli portava a fare queste tavolate incredibili. Io, e trattavano bene. Tu per piazzarvi i palcoscenici così. E via. Cosa è chiaro qua? E non mi arrivi due. È bello. Cosa stavi facendo sino adesso? Ci hai abbandonato. Quattro. Passi. Ma si era ascolto. No, non fuma niente. Vedi bene. Niente? Magna, magna. Si mangia dei gucciucci. Oh. No, scherzando. Riprendi per... Cosa ma niente, le calamari? Ma stavolta pizza. Pizza stanotte. Via. Privo. Yeah. C'è buona pure una pizza. Mi ha detto tre pizzette oggi, prima di andare a casa, poi ci bruciano due yuki. Vai tu, e tra l'altro ti vedo pizzate. No, ma c'era un sacco di roba, ma io ho preso solo, mi ha detto solo un po' di patatine e due mandarini. Non ci credo, mica poco fa hai detto che hai mangiato la pasta col salmone, vedi? No, mia moglie ha fatto, però io non l'ho mangiata. L'ho appena gustata. Appena gustata. Dove è? Dove è? Luca, tu avevi credi che l'ha appena gustata? Cosa? Pasta col salmone. Gianni? Sì, là, ti ha detto l'ho appena gustata, sì. Ma, guarda, no, sui poco non ce l'ha detto. Una forchettata l'ho mangiata, per gustarla, mi piace molto, però quello che vorrei volare. Da un piatto, eh. Faccia sulla microfono la bocca e vai l'ubilio di gorge, vai. Lo dici da quel provare? Eh, oh, era pure la moglie, diceva che trampava, guarda, era la mamma che trampava, dal basco. Ma tu dai Claudio? Oh, Eddie l'ha trampato, quando stava facendo il comizio. La madre è andata a soccorrere e l'ha caduta anche lì. Cos'è Claudio? Non so se è la moglie. Chiuso, si è arrabbiato e non ci ha lasciato. Detto, Claudio! Perché si è arrabbiato? Perché c'era quello là che pum. Si si gancareggia l'udito qualche volta, ma non è che non lo fa sempre. C'era il portantista, si è arrabbiato. No, mi copri, vai pum, mica si diventa. Cosa? Non ho capito. Già compreso mai tu? Sì. Fatti spiegare a Gianni, e ha compreso, vai. Ho capito perché non si è arrivato bene. Ah, no, ho parlato in fretta io, ma Gianni mi ha capito. Sì, stava parlando di una cosa a pugni a parte. Ah, fatelo uno da te, fatelo due da te, fatelo tre da te. No, ha compreso, no, visto la portante, vera Bruvelli, e sai come te, no, tanto non fa giù da un microfono, c'è dove mi stai sempre ta, non si ne vede. Ah, giusto, c'è ragione. Ecco. Cazzo di danni sabato davanti alla terra. Vabbè, qualche lasciato la tappia sotto. No, no, poi sono... Si è arresa la, la madre. Si è arresa? Allora. Ecco. Vuol dire che comunque è arrivato più tardi, non lo giusto. Uè, Dio. Ti voglio bene. Dai. Vicino? Ricordiamoci come si chiama, quello verniciatore. Ah, lo sai chi è? Ho verniciato la moto. Ah, vado bandito. Bandito. Sì, che ti vado la fissata, lunghissima. Ok, sono rimesso in macchina, Roberto. Non mi sembra che l'hai sentito da poco già, no? Da poco, come sei stato, eh? Ehi, ehi, che stavo cercando un'altra migliore, buh, voglio di andare malissimo. Esatto. Sì, sì, l'abbiamo sentito insieme la moto. E pagato. E vabbè, anche lui è furia adesso. Eiaia, per carità, mi fanno ridere. E così, a che cosa sto manda? Sto telefonino che ho parlato. Tuo? No. Chiedi Luca. Fanculo. Gassi. Tu gassi della doccia, rabbè. Aspetta, io non ho la doccia. Ma quella è quella tosse secca che ti asciuga la gola? No. No. Negativo. Eccolo qui mi viene già. E poi c'ho sempre questo... Forse c'è qualche placca, non so, boh. Mi fa male, Diego, ne ho inghiottisco la gola. Perché la inghiotti la gola? Non ma niente, non bevo l'acqua, mi fa un po' male, è fastidioso, eh. E gli fa male, ha detto, quando inguia la gola, la gola gli fa male. Ma te che hai ancora? Che era che avete Luca, tu sì? Sembra roba variata. No, roba che... proprio se... una batteria che se ne sta andando. È fatta apposta già, è così la suoneria. È quella che mandano pieno di anticorpi, me. La pubblicità. Già l'ho capito. Forse può anche succedere. Succedere che te lo faccio anche il telefono, perché se si rovina la cosa della suoneria di rubare. Cioè come hanno fatto a farla loro? Il computer. Vabbè, Zenit. Facili Zenit, che mamma, Zenit. Zenit. Mamma invece di Zelig, Zelig, di Zenit. Io dicevo Zeling. Zeling? Zeling, pensavo che si dica, dopo ho detto bene, ma c'è Zeling. Zeling, Zeling, no Zeling. Sono a medio Zeling, vero? Sono a medio. Se no là sul ridente, cavallino, è un coso un bar, ma è tutti sei ingolfata. Io, è vero. Cazzo, vabbè. Mi contagio la risata. C'è il microfono che anche quando ride. Sì, ma anche Antonio non scherza. Un amico Luca che se lo vedevi ridere ti contagiava la risata, rideva con la I, con la A, mille... proprio risati di chi si riuscivano le lacrime appunto. A chi già? Un amico mio, non lo conosci tu, Adriano si chiama. E praticamente quando eravamo alla Croce Blu era presidente, no? E domandava a Natale, forse lui qualche volta l'ha visto vedere, era contagioso, ma ci vanno le lacrime, quando era divertito, guarda, ti faceva pisciare, Una volta l'abbiamo soffermato, l'abbiamo visitato la donna e poi l'abbiamo chiuso fuori la porta. No. Abbiamo messo il rossetto, tutto quanto, e via. E tutti in quattro, l'abbiamo visitato la donna. Tutto truccato, basta un pelo di Cannavaro. Allora tutto vestito, l'abbiamo messo il parrucchino, tutto quanto. No, basta, io l'avevo chiuso fuori da l'acqua per farlo dove passavano il modello. Già, e quelli che ti danno a cinghiotta, ma te ce la vuoi fare? E via. Anche quelli che ridono, quando ridono, fanno rumore tipo maiale. Ma è Turg? Avanti. E avanti. Io ero. Ho fatto il black. No. Più blecco, adesso Tonellino, gare. Pria! Tu a Peppi in sento, io sta a pescare. C'è maestrale già, non fa. Non fa il piccendi. Ma farà se no oggi. Ma farà se mangi. Stava lì. Stava lì, no, era. Mi sembra attaccando lì. Ancora, il cavallino rosso. Cavallino rampante. Vai! Io! Già! È un po' forte! Vai cavalli! Ma dai, adesso passa la 15 un attimo, adesso c'è! Ma se no, ho detto niente, bugia! Ho detto niente, sono passato io, dai! No, perché? Così, dai! Ho salutati! C'è sul 15! Vai! C'è sul 15. Ehi, ehi, ciao carissimo, mi fa piacere che sei venuto a trovarci. Mi hai sentito? Non sono Natalino. Io sono la voce calda della frequenza. Gianni doppio rum, detto Gianni il caldo. Parla con Tiro. È caldo, le vengo le vampate. Chi sa cavalli? No. Natalino mi sembra che un cane. Ecco, ecco, ecco, ecco, a voi, a voi, a voi, a voi, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, il caldo, il caldo, il caldo, il caldo, il caldo, il caldo sonno. Bella. Ne rifalla. Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, a voi, voi, voi, voi, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, il caldo, il caldo, il caldo, il caldo, il caldo, il caldo, il caldo. Un po' dai. Ma stavo parlando. Ehi, ciao cavalli, ciao. Alla prossima. Dai, passiamo dopo, dai. Se non ci addormentiamo. Vai già. Ciao cavalli, non corri una questi greca, vai. Ci sentiamo dopo, casomai. Riprendi, Pierpa. Aspetta che ti sto riascoltando un attimino, eh. Ciao, ciao cavalli. Per pa, resistere a me, fammi sentire come arrivo lì, ah, va, guarda un po'. Ora, attento, Pierpaolo, vera uno, gava. E di qua, Pierpaolo, mi ascolti. Ora è te, pompa. Aspetta, se non mi dai il tempo, vai adesso. Attenzione, Pierpaolo, vera uno, senti qua. Mi ascolti, cosa chiamo qua? Zitta, eh. E andate, ecco. Arrivo meglio di Gianni, no? Ah, boh. Ma già sempre che è chiaro, perché è tua, già. No, più come cosa sembra, boh, più chiara la mia. La sua era con l'eco. La sua era con l'eco adesso. No, ma comunque già... Già va bene. Prova a registrare questa senza eco a vedere come arriva. Ci sono sempre eco, senza eco. Vedere come sta arrivando. Treppo! Aspetta! Aspetta, Lu, guarda a vedere come arrivo senza eco. Aspetta un attimino, che lo sto... Vai! 1, 2, 3, questa è la voce senza eco. Voglio vedere come mi sentite. anche se io sono molto rilassato, non grido all'apparato né niente, va. Vediamo un po', voglio vedere come arrivo. Meglio dire sentire. Allora Gianni, intellettuale. È buono, no? Io sono amplificato. No, vedere come arrivo io. Ma è chiaro qua. Era di te per proprio che comincia a vedere la U, fa papà. E che a parte che sto convincendo non c'è che fuggire diretto a me, come ti ho detto, vai la 1 e la poi. Vabbè, non c'è problema, lasciamoli sfogare. Ma eppure adesso mi sorge il dubbio che è fatto diretto a me. Sì, vabbè, lo stesso è per là, cosa accanto. Pure Antonio non poteva essere, c'era qualche altro sotto, Non lo so, ma non mi interessa più di tanto a me, anche se la diretta a me non me la fatti proprio nuda. Mi scivola addosso. Ah, che fa ridere. Sì, vabbè, per carità, non me la fatti nuda, Si pure la diretta a me non mi interessa niente. Stiamo giocando e giochiamo, dai. Allora ci hanno uguale. Ehi, vabbè. La voce calda della frequenza. Gianni, il scala. Non lo fare, qui ho sentito arrivare a casa la mia base. Non posso la fare anche a me, no? Ecco. Gianni, il caldo, la voce, c'è la della frequenza. Io non lo stavo registrando perché avevo potuto, ma comunque è arrivata anche adesso. Bello, bello, abbiamo la farlo con la bocca, la bocca, la bocca, la bocca, la bocca, la bocca, la bocca, la bocca, la bocca, la bocca. Mettiamo come suoneria la verità che lo desideri anche tu questo bel microfono. Ah, prendi anche per il culo, no? Ridendiamo di tuo sarà là, non ce l'hai nascosto, dammi il tuo che te lo pago, come fai, come te lo svinguato, tutto dopo te lo restituisco. No, no, se non esce da casa, troppo geloso io so, ma no, poi è una cosa, diciamo che ci parlo io e basta qui. No, io ti do i soldi e tu te lo ricopri. No, no, non va via da qua questo, ho fa un sudato per ordinarmeli. Tutti e due, no, no, allucinante, una cosa, una richiesta troppo grossa. Ne hai due. E infatti, uno è in macchina, lo devi assaltare. Vabbè, ne hai due, uno dai a me e l'altro te lo ordini. No, ripeto, quando a gennaio te lo ordini tu direttamente. Ma hanno diversi attacchi, quello della macchina e questo qua. Sì, sono modificati. Sono modificati, non c'hanno niente di modificato, solo lo spinotto accanto. Sì, vedrai che già a gennaio vedrai, verso il 2 al 3, l'ho telefonato. Come? No, sono diversi dagli si rimbaggia. No, sono uguali, non ho fatto nulla io. Cazzo, ma che me ne vado, uno a bene, cioè una busta, si pare di comunicata a pari. Mi sembrava che me lo sentisse, sto sempre non ce l'hanno cosa mi ordino io. Secondo me tu hai telefonato, se no adesso gli dico a lui di telefonare, perché tu hai telefonato, non ce l'hai, se no adesso faccio telefonare a lui. Per farti giuro, ho telefonato quando tu me l'hai chiesto, ho telefonato e gliel'ho detto. E mi ha detto, guardi, chiami direttamente lunedì perché loro sono in fiera, tutti e due. E così facciamo l'ordine, vabbè. E io ti ho detto chiamare lunedì, tu ci amato, lunedì. Senta tutti. Perché ero in delusione che ne ho preso. Sembrava a un certo momento, sembrava che stava dicendo che non ne avevano più. Era una odice, no? E stata che abbiamo fatto degli ordini, e arrivano a fine dicembre, fine di gennaio sono qui. Quindi non è che devi aspettare molto. E vabbè, per pa, cosa vuoi fare? Io l'ho ordinato 100.000 volte, 100.000 volte ce l'avevo. Ma c'è quanto in ordinato che si dico, chiedi a Luca. Luca. Ehi, ehi, andiamo. Mi sembra che cos'è il quarto, già il quinto. Forse il quinto. Ne ho venduto anche, me li ho rivenduti, riordinati, perché però ne ho trovato belli come questi. Non ne ho trovato uno che equivaleva. Qua quello che era buono era quello della Intec. Però non lo fanno più. Quindi l'unico sostitutivo che si assomiglia è questo, sia come microfono che forse questo va anche meglio come ecco perché lo puoi regolare come vuoi e tutto. Capito se poi nuove arrivano diverse da questo, da quello che c'è tu. No, per DM1000 e DM1000 c'è poco da fare, sono tutti uguali. C'hanno le regolazioni, qui già ti spiego io. C'hanno la regolazione dietro per l'amplificazione, c'hanno la regolazione per l'eco, c'hanno un sacco di regolazioni. Prima lo provi così com'è, ti dico le regolazioni come le devi tenere tu, devi tenere tra il 3 e il 4 per riuscire come sto scendendo adesso. E invece quando vuoi fare l'eco ripetitivo come quello che ho fatto poco fa, li metti tutti e due a 10 e sei a posto. Ma sai, la verità è che tu vuoi fare la sorpresa, no? Adesso gli dico che no, mi hanno detto che non li fanno più e che non ne hanno più. E poi ci sono curmati che ho buttito, cazzo. Cazzo, che cazzo, ma gli ha fatto apposta, cazzo. Vabbè, a fattini per pagiare. Se è proprio quella soddisfazione, lo proviamo a casa tua e te lo faccio sentire come esce. Poi vabbè, quando arriva arriva, no? Non vedo problemi, non c'è problema. No, che vabbè, era stato qua, adesso era meglio, ma ti aspettiamo, non fa niente. Anche il diavolo rosso è un bel buono nel microfono, però io preferisco questo. No, aspettiamo questo qua, no, non lo trovo per niente, questo qua, mi piace quello lì. Sono l'unico a Sassari che ce l'hai. Non sarai l'unico, vedrai. Ma è sempre il mio copione. Ehi, vabbè, ma non sarai l'unico. A me piace moltissimo quel microfono. Io, questi microfoni che... Ma è tattalino. Vabbè, ci dà da sì. E dove sei finito stasera che ti ho chiamato e non ci io tra questo? Uscito io. Ho detto poche parole oggi. Com'è? Ho detto uscito sì, che poco fa quando sono entrato al lavoro ti ho chiamato e non mi hai risposto. Perché ero impegnato. Non ho capito. Ma sta lì. E avanti. Antonio, sono. Tu. Hai sentito me cosa ho detto? Ne hai uno su di microfono? Sì, c'ho questo. Quello cosa è? Uguale a quello di... No, non è uguale a quello di già. No, questo è di tavola. Alla tavola? Di Daura, Di Daura? Sì. Ehi, Giulio gli ha levato a vero di Daura. Ma sei? Daura, poi... Ma sai che Giulio Dollaro costruisce microfoni tipo il Tarra più 3 e l'MB più 4, tutto quanto in legno, li mette in circuito nessa delta, mi pare. E che te tocca un bel. Avvio. Ma tu lo devi vedere quanto è bello, quando è rifinito. Bellissimo, è un bel microfono, va bene per quelle stazioni base che avevano, che erano tutte in legno, ce le presenti. Per quelli va un bel bene, se dici un bel bene. Ma anche che non basta per niente, però si può imparare. E attira di tante, va bene tutto proprio per quelli. Per quale? Quello che stai usando tu va tutto bene. Se tu sai adattare va bene. Dimmi per esempio. E cosa ti può andare bene per quello? Prova il Tarra più 3 a vedere, io ce l'ho vendito, però bisogna cambiare gli spinotti. Il Tarra più 3? Il Tarra più 3B. E cosa c'ha quello lì? Per qui c'ha solo amplificazione e basta. ma è capsula ceramica. Non c'ha ecco però. No, quello non è ecco, però è fultumato come metti il microfono per come esce. E qua cosa stai vendendo? Ci mettiamo d'accordo per ticcare. Quello lì è un microfono di uso al vivo e c'ha praticamente nemmeno un grafico, niente. A te lo curi con questo? Basta modificare anche quello lì, si può modificare quello, e vediamo quello che esce più bene. Sempre questo. È metallico quello lì. Tu esci male anche con questo, se per quello. Come fai a dirlo che esco male? E se te lo dico io? Ciò te lo corri con questo, già non è il problema. Lo di Luca è migliore per dire, mi piace di più come esce. Questo pompa più di quello di Luca, perché io ce l'ho uno. Io ho fatto la gara, Luca, dai. Vabbè, il mio è a 5, io se per a 5 lo ottengo. Perché... se lo metto si va un cacchio. La volta qua già va bene. Va benissimo a Puglia. No, vuoi da te io pompa un bel. Che c'è pompa? No, pompa è già pompa, ma è metallico, invece il tuo rimane qui. Con i toni più. E così bassi c'è già migliori. Invece rimane il suo rimane troppo metallica come voce. Ma chi questo? Ma vai, io sono metallica. Io la sento così, metallica, poi. Se no ti avrei una cosa più alta. Proprio il Darner che esce metallico. Sì, sempre il metallico, conferme. È metallico, spieghi non me lo è metallico, lo però quello lì è metallico lo stesso. Ma che non è metallico questo? Luca, metallico sono io secondo te. Cappa. Sì, un po' è metallica Natalia. Mi va il strano, io mi sono acquistato una metallica manuta. La mia è già metallica. No, la tua no. C'è più bassa. Diciamo che rimane... Ma no, non è metallica per niente. Pagappa. È forte e pulita. Una bella rada. Quello di quel microfono mi piace la rada. Infatti stavo sempre facendo la corte, aspetta, non me lo vuoi dare? Oh, per... Dimmi. Prenditela. Aspetta gennaio. E ha di compito, aspetta gennaio, là. Dove niente da fa. Nessuno c'ha un microfono. Ne ho uno tutto smontato, se lo ricompongo. Ma non vuoi questo? Cos'è? Oh, già è questo microfono. M1000. Tutto smontato, perché è smontato? Perché... Ti ho fatto fare fine butta perché mi consumava troppo le batterie, era difettoso. Visto è che c'era, dalla a me che lo controllo io. Ah, sei tutto di montata. Tu dalla a me. Qua la porra lì dove è. Faccio andare a DM2000 io. No, è tutto senza fice, circuiti, la staccata, tutto quanto. Non so manco se ci sono tutti i pezzi. Sto usando per pezzi di ricambio. L'ha distrutto. Sì, ma ho fatto incazzare perché mi consumava la batteria ogni settimana. Ma tu ti vedi smontare così, voleva visto. Visto e smontata. Crepato. Sì, vabbè, si la fuggi. La sera 31 che mi rompe il capo. Beh, domani mi attacco uno io e ti faccio sentire. Che amplificazione va. Che microfono c'è? Quello dell'altra volta metto. Microfono è? Chi è? Di quelli da palma. Sì. F12. Cosa? Quello è l'F12. No, 146. Non lo so, non lo conosco. Non lo conosco. Talino, riprendo. Ecco, la riprendo. Voglia, non è Puglia. E perché? La Puglia riprendete voi da già vi ascolto. Ehi, ehi, Luca. Luca? Ho guardato a Zeri che... Luca. Allora, vabbè, riprendiamo tu. Puglia. stavo guardando anch'io il video. Che chiama? Cosa c'è? Ah, vabbè. Domani vengo, lo prendo. Filmatore, porno. Io film di guerra e pace per... Ah? Un film di guerra e pace. Non voglio atterrarmi a tuo. Dai, dammi di gratuito, dai, muda, risa. Che c'è? Cosa c'ho qua? E taglio la legge, quindi a prenderlo, che lo voglio vedere. Cagando, adesso che passo domani. Ah, va, vai. Oh, è troppo freddo. Ecco, è troppo freddo, dai, picca. Vai, scendi a prenderlo. Voglio vedere il calamaro. Ah, sa, ti si arrompano. Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni. Riprendi, vieni. Adesso lo faccio io, ecco. Allora, guarda che ho voto il dia te io. Ecco, non voce il verbo leccare. Ecco, voce il verbo ecco. Gianni. Eia. Mi prendi. Adesso l'ho tolto così almeno nessuno dice niente, là. Così non lecchi, Gianni. Ficcato. Ah, già così non lecchi. Cosa hai tolto? Lecco. Ah, così non è che neanche tu e che. No, si può mettere e togliere come vuoi. Solo che quando mi dico di togliere non lo tolgo apposta perché a me mi piace. Ma senti, sei come te Pierino. Mi piace. Ah, no, aspetta un tocco quando stanno parlando. Se sei voi che me l'hai tappato. Senti già. Antonio, non fare queste cose. Veramente hai smesso di parlare. No, mi hai sovrappopolato. Scusa. C'è problema. Io l'avrei fatta apposta quando parla lui, la verità che l'avrei fatta. Non sente più nessuno se parlo io. Non so, scusa, non l'ho fatta apposta. Scherzando, me la frutta siamo. Non l'ho fatto per posta, l'ho fatto per telegrafo. Dai, poi più là, prendo una stufetta, sto freddo, e poi vediamo se mi sto passando. Ah, ti hanno schiacciato. Che ti ha schiacciato? Pottante d'oro. Già. Yeah. C'è la pottante d'oro. Beh. Io stiamo sovramodulando, parlando. Peccato. Beh. Per farla domani in figlia. Domani e dopodomani. Meritato riposo. Di gana. Aspetta che accetto il coso, mi voglio ascoltare, non c'è qualcuno che si abbia davvero a fare un culo a me. Ma cosa? Meteo 3. Non ho ancora visto questi televisori col digitale incorporato per te. Cosa? Non ho ancora visto questi televisori col digitale incorporato, come stanno dicendo che dovevamo uscire. No, ci sono già. Li hai visti tu? Yes. E i nuovi? A 1 euro. Capo. Un bel costo. Uno che ne avevo visto era... c'è 899, comunque 900 euro. È abbastanza, ma grande? No, non era molto grande quello che ho visto io. 17, no, più grande era. Pare che... no, ma era di quello a schermo piatto però, Quelli tipo cinema, a schermo lungo. I tuoi video sono belli. Sì, è ovvio io. No, io il prossimo che comprerò sarà così direttamente. Come devo l'accidente del codere in mezzo ai piedi. Che mi piace, io l'ho messo sul televisore, siccome è mio. Il televisore Sony c'ha dietro l'affare lungo, però il televisore è fino e non sta bene. Non è tanto come cala. Lo devi fissare bene. Vedi, adesso c'è chi mi ascolto. Io devo accendere il Bluetooth. Chi tu hai la yoga, arrivi. Aspetta che lo accendo, un attimino, dammi il tempo. Vai, vai, vai. Poi volevo accendere quello del computer. E vai a vedere. Vai. No, non sta arrivando a me allora. Faccelo via. Vabbè, lo manda a me e poi io te lo mando a te. Mi stiamo andando già. Grazie. Andando sto, mi sa che saluto. E me ne vado in corretti, sono troppo stanco. Se vuoi papà non me ne bisogno manco. Allora degli cucchi. Andate, ragazzi, continuate voi. Io me ne faccio tutto il corretti. Ciao! Mi è venuto un microfono. No, stavo dicendo, adesso anch'io ho il parlascolta. Si sente? Mi sto autoascoltando. Ehi, come l'hai fatto? Ti hai messo un'altra apparecchio con le cuffie così? No, negativo. È un'altra apparecchio, ma ci siamo copriti. Ti sente, no? C'è il ritorno? Ma ogni tanto a fischi. Mi sento come amplificato. Guarda cosa stai facendo, la nanna? Sai di sì, per fare. Se no domani non me ne scelgo. E io qui, allora, buonanotte. E buon lavoro per domani. Ciao, ciao, buonanotte e buon riposo per domani. Buonanotte, già. Buonanotte. Ciao, te. Buongiorno, anch'io. Adesso parlate con il tuo amico, mi ascolto. Ma tu stiamo per il primo giorno, no? Luca, anche tu sei caputo? Ma non stavo alla TV io, ma sono qua, sono qua. Una puntata, vero? E vedi tu, coso, non me l'hai mandato tu? Lo sto mandando, quello lì. Tanto, vai, vai. Velocissimo. Vega, togliamo il microfono. No, sparando. Ma quasi per arrivare. Uomo? Quasi per arrivare, vedi? Non ho aggiunto ancora niente. Vedi se arrivi, è 85%. Arrivato. E aspetta che... Ecco qui. Sta arrivando. Andando, sì. Vedo me. Ma va di cazzo è il tuo corso. Via. Ecco, adesso c'è. Arrivando. Cosa era? Via. Ma non è ritenuta. Te lo mando a te. Oh no, adesso non sono andato. Vai. Mi fa un culattone. Ma io mi sono venuto di stai. Stai mandando un altro. Aspetta che ne sto mandando uno io. Tu l'hai disconnesso e non è arrivato. Non per colpa mia. C'è il brutto spento. Ce l'ho spento? Certamente. E vai, oltre culo a capo che ti posso vedere come ti affisso. Spegnati troppo. Ma già arriva. Fai tu magari che l'hai disconnesso. Ma magari mandatemi un'altra cosa, capito? Vabbè, aspetta. Come ti sono trovato? Oh. Lo sto mandando io. Mi sembra che era 58%, 60%, quindi stava andando un bel rosso. Avverso, va. Aspetto. Passo? Andando, sì. Via. Sì. Ah, ah. Cosa? Vai. Fammi quella. Bene, grazie. Via. Va. A qui è. Sto mandando la sera a me. Te la mando. Cosa non ti può mandare? Non mi dà l'invio. Che cavolo è fatta il diavolo? Inviarmi questa qua. Ok, Coca-Cola. Se non riesco a inviarla. tutta l'acqua. Non mi fa potenziarla. Sì. Vado, eh. Aspetta, mi viaggio. Vedi che non è spento ancora. Adesso spento, adesso mi spento.